140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Musica e televisione nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Caffè San Vittore, Milano. Italiano da esportazione. Per Remo Anzovino, avvocato e pianista, una nuova avventura, un tour senza confini. Sta succedendo che sto provando l'emozione di suonare un po' nelle capitali della musica del nostro paese, e per me, insomma, che nasco storicamente nei cinema, col cinema muto, nelle piccole compagnie di teatro, le musiche per i burattini, e imparare proprio una nuova lingua, che è la lingua di una tournée, che è la lingua degli spostamenti, che è la lingua di stare assieme alle persone che fanno parte della band, da crew. Questo è molto bello, molto emozionante, perché ti fa incontrare delle persone sera per sera e scopri che la musica che stai facendo sta raccontando qualcosa, un pezzo della storia di ognuno di quelle persone che vengono a vederti. E questo per me è di grandissima gratificazione, perché ho capito che la musica che sto facendo riesce ad arrivare, insomma. Anche la componente della condivisione, non solo con il pubblico ma anche con i musicisti. Per te, che hai suonato da solo e non solo, che significato ha? Ah, per me il rapporto con i musicisti è veramente fondamentale, nel senso che mi rendo conto di essere sostanzialmente proprio un uomo spogliatoio, cioè nel senso che anche se il progetto ha il mio nome, le musiche sono mie, il leader sono io, il pianoforte lo suono io, però nella mia mente questo gruppo con questi musicisti, con strumenti così particolari attorno al pianoforte, era un sogno che coltivavo da tempo. Anche perché l'idea è quella un po' di sgonfiare la figura un po' azzimata, un po' importante del pianista. L'idea è che invece nel mio progetto il pianoforte è il cantante di una band. Mi sento il leader di una band, anche se non canto, canto col mio strumento. L'atteggiamento sul palco è un atteggiamento da band, e non adesso arriva il maestro che ci fa sentire la musica tutti zitti. Tanto che durante i miei concerti certi accadono cose strane, tipo gente che si alza in piedi, battono le mani, urla, e questo mi rende felicissimo, perché tira fuori la parte più rock and roll mia. Ti ama reinventare, reinterpretare, scrivi però dal vivo, ti piace anche un po' stravolgere, e in questo però la band, tra virgolette, ti deve seguire. Come fai? Ah, perché sin da ragazzino il mio modello dal vivo è sempre stato Bob Marley. Per me il massimo proprio di un live è Bob Marley, perché per un esempio, cioè il pezzo più famoso di Bob Marley, No Woman No Cry, tutti noi lo conosciamo nella sua versione live. Cioè, la versione che tutti noi cantiamo, se pensiamo al disco, quante volte abbiamo sentito, sentiamo un pubblico che canta sotto, che batte le mani. Perché? Perché molto spesso questi artisti, e Bob Marley siamo su tutti, hanno capito che il live è una festa, a prescindere dal genere di musica che tu fai. È una festa nel senso che non sono io di fronte a te, io artista di fronte a te pubblico, ma siamo nello stesso posto per condividere un'emozione e io sono il portavoce di quell'emozione. Paragone con la band, il cantante della band, hai un vantaggio rispetto al cantante di una band italiana, l'esportabilità dello strumento, perché non devi tradurre i testi dei tuoi brani, e Re Manzovino adesso è particolarmente da esportazione. Sì, sono appunto in programmazione una serie di concerti da New York a Hong Kong a Shanghai, probabilmente anche Londra. Insomma, c'è questa idea di portare fuori questa musica, e questa cosa chiaramente mi lusinga molto, mi fa molto piacere. In realtà sai cosa succede? Quando tu suoni uno strumento e con questo strumento fai trovare le parole, le immagini di un film alle persone che ti ascoltano, perché alla fine l'inchiostro di questa storia, di questa penna, sono le emozioni degli altri, non le tue. In realtà non è un problema che manca la lingua, il fatto è che riesci a parlare più lingue contemporaneamente, cioè il linguaggio strumentale è un linguaggio che se tu dosi in un certo modo ti consente di parlare 3-4 lingue contemporaneamente, che sono le lingue della musica. Saper parlare contemporaneamente il linguaggio della classica, del pop, del jazz, del rock, metterli insieme come una persona che riesce in ogni contesto a comunicare in maniera, riuscendo ad essere a suo agio, sia che parli con una persona di origini africane, sia che parli con una persona dell'Occidente piuttosto che dell'Oriente. Cioè, questo di fondo ha anche un'idea di grande libertà, di grande liberazione dai tabù e dai pregiudizi. Qui non ci sono stereotipi, questa è una musica che è fatta solo per essere presa, essere usata, essere vissuta come si prendono e si usano i libri, gli oggetti, le cose di cui veramente noi abbiamo bisogno e che ci nutrono nell'anima. Non ci sono schemi, però c'è solo una regola, che è quella di comunicare. Siamo incontrati l'ultima volta qualche mese fa, stavi lanciando il tuo ultimo album, Viaggiatore Immobile, lo stai portando in tour, ma non c'è solo quello, insomma ti stai divertendo un po' a recuperare anche il resto. Sì, tanto che infatti durante i concerti ho recuperato un paio di temi scritti proprio tanti anni fa per il cinema muto, che mi ero proprio dimenticato in una cartellina, a volte rimettendo a posto le cose, e soprattutto quando si è molto disordinati, come nel mio caso si trovano, voglio dire, delle cose. Quindi per esempio durante il concerto ho recuperato un tema scritto per Chaplin, un tema scritto per Buster Keaton, e mi sono accorto in realtà di quanto quell'esperienza del cinema muto per me sia stata proprio uno spartiacque emotivo. Nel senso che non ho mai smesso sostanzialmente di musicare, non tanto di scrivere musica, di musicare il cinema muto, solo che il cinema muto oggi per me non è più proiettare Buster Keaton o Charlie Chaplin, è proiettare le immagini della realtà. Alla fine, quando tu vai in metropolitana o giri per... è tutto un gran cinema muto, tutte queste persone sono tutte con l'iPod totalmente isolate e ognuno si sceglie in assenza l'assenza di suono, la musica di quel film che sta vedendo. Io lo faccio sempre, una volta arrivare in metropolitana, dico adesso mi metto la colonna sonora di questa scena che sto vedendo, allora cerco nell'iPod e cerco di vedere questa cosa. Magari sarò un po' matto, ma non credo di essere il solo a fare questa cosa. L'ultima domanda è quella di Rito, io non posso non fartela, te la faccio sempre, fai sempre l'avvocato però. Sì, continuo a fare l'avvocato anche perché ho la netta sensazione che se smetto di fare l'avvocato poi non scrivo più bene, per cui a questo punto sono condannato a questa doppia identità. In realtà insomma inizia a essere un po' faticoso, però la fortuna anche di aver capito da tempo che era importante avere persone anche appunto che mi aiutassero in studio, a cui sono chiaramente molto grato, e anche persone che nella musica hanno sempre considerato molto il fatto che io davvero faccio l'avvocato, quindi continuerò così schizofrenicamente a fare l'avvocato e il musicista fino a che sarà possibile. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter giorno per giorno tra conferenze e presentazioni stampa. La televisione nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Sala Buzzati, Milano. Prossimamente sui nostri schermi i destini futuri della televisione, l'ultimo volume curato dal critico TV più famoso d'Italia, Aldo Grasso. Intanto, prossimamente sui nostri schermi i destini futuri della televisione già vuol dire che la televisione ce l'ha un futuro. No, la televisione ha un futuro, e come? Cioè, nonostante ogni tanto si parli di morte della televisione, ma insomma abbiamo già fatto i funerali al teatro e poi è sempre vivo, abbiamo fatto i funerali alla radio, è sempre vivissimo, abbiamo fatto i funerali al cinema, ma al cinema ci si va ancora. Adesso si parla un po' di crisi della televisione, ma è vero, insomma, nel senso che comunque si è completamente frantumata rispetto all'epoca in cui c'era uno o due canali e 18 milioni di persone guardavano uno stesso programma. Adesso bisogna accontentarsi di pubblici un po' più settoriali, e per cui insomma non ci sono più i grandi ascolti se non quando ci sono gli eventi o sportivi oppure purtroppo catastrofici, e per il resto andremo sempre di fronte a una televisione a ventaglio, no? Dove cioè, ogni spicco rappresenterà una parte del pubblico. Tutto questo anche per quanto riguarda il servizio pubblico. A proposito di funerali, anche il funerale del servizio pubblico l'abbiamo evocato più volte. Sì, il servizio pubblico è in crisi, non soltanto da noi ma un po' in tutta Europa. È in crisi perché in qualche maniera ha finito la sua funzione storica, che era legata molto alle origini della televisione, cioè il fatto che questo mezzo nuovo, esplosivo, era servito in tutti i paesi, come dire, a dare una lingua nazionale, a far conoscere la gente tra di loro, a far conoscere i paesi. Questa fase è finita, e se il servizio pubblico non riesce a darsi un nuovo obiettivo in questo diverso panorama mediatico che si è andato a formare, certo che diventa difficile giustificare la sua presenza, no? E quindi le polemiche che ci sono ogni giorno in qualche maniera sono lì a testimoniare che il servizio pubblico è un po' in crisi. Anche se lei ci spiegava, non esiste una ricetta per fare il programma di successo, se non insomma nella televisione vale un po' la serendipity. Sì, la cosa straordinaria e curiosissima insomma della televisione, che la rende anche diversa da altri mezzi di comunicazione, da altri ambiti espressivi, è proprio questo, cioè in tutti i paesi i grandi successi non sono stati programmati, cioè o quantomeno non facevano parte di quelle linee direttive che il gruppo dirigente aveva in testa, no? Cioè, prendiamo nel caso dell'Italia, tutti citano il maestro Manzi, non è mai troppo tardi, eccetera, ma il maestro Manzi è stato un episodio marginalissimo. Cari amici, buonasera. Eccoci nuovamente insieme per imparare a leggere e a scrivere. Io direi però di più, per imparare a conoscere meglio il mondo e noi stessi. Adesso potrei farvi una domanda. Che cosa ho scritto? So che voi non potete leggerlo, ma proprio per questo siamo insieme, per superare questa difficoltà, questa, diciamo, limitazione che ci frena un po'. Le persone che hanno preso la licenza elementare attraverso il maestro Manzi sono state pochissime. Chi ha insegnato a parlare l'italiano agli italiani è stato mai Bongiorno. Lo è stato perché La Sciora Doppia è stata il più grande successo dell'epoca, cioè quello che oggi noi diremmo una trasmissione cult, è stata la prima trasmissione cult della storia della televisione italiana, è stata quella che è stata devastante, esplosiva, eppure se uno si va a leggere le cronache dell'epoca, gli intellettuali ce l'avevano a morte, perché dicevano che il quiz era il surrogato della cultura e quindi il paese non si sarebbe mai emancipato perché i quiz non erano cultura, erano soltanto una forma mediocre di cultura. E invece non, le cose non sono andate così. Nella cabina di vetro Giulio Preziosi attende ed ecco la domanda. In che anno, in che città e per quali scopi ebbe luogo la proclamazione della Società Nazionale Italiana? 1857. Nel 1857, va bene, la città è Torino. La città è Torino. Gli scopi, la riunificazione dei vari comitati fino allora esistenti, aventi quale scopo ultimo il programma Italia e Monarchia di Savoia. La risposta esatta! Ed ora per il fortunato vincitore si inizia una nuova settimana di passione. Adesso la televisione, soprattutto in questi ultimi mesi, si sposa con una certa passione per i social network, in particolare per Twitter. Lei come vede questo ambito? Si fa mai incuriosire da questi aspetti? E poi se lei legge i tweet sulle sue critiche? No, sì, mi faccio molto incuriosire su questa cosa qui, che vabbè, intanto c'è un aspetto generale che ovviamente, come dire, c'è questa apertura. Le comunicazioni di massa hanno questo andamento, come dire, a valanga, e cioè più vanno avanti e più coinvolgono persone, no? E quindi adesso i social network hanno dato parola a persone che molto spesso parola non l'avevano, cioè una volta per comunicare con un programma o con un giornale bisognava prendere carta e penna, scrivere la lettera al direttore, eccetera. Adesso, un secondo dopo che un programma è andato in onda, si può subito commentare, eccetera, così. Carolina, commenti dal web. Eccomi Fabio, allora, a proposito di pettinature, si sono già scatenati. Ragazzi, io qui ho il team Pelù e il team Carrà, che silenzio perché siamo in collegamento. Allora, sulle pettinature si sono decisamente scatenati, vorrei partire dalla mia. Perché abbiamo Carolina l'hanno pettinata nella Galleria del Vento insieme alla nuova Ferrari, piuttosto che anche arrivano dai VIP, ad esempio abbiamo Emanuele Filiberto su Twitter, dice: potete dire alla co-conduttrice di The Voice che ha un chihuahua sulla testa? Gentilissimo. È tutta una finta in realtà, io sono qui per twittare e chiacchierare, insomma, con gli amici che scrivono le loro storie sul nostro sito C'è di mio marito, con quelli che twittano. Ormai non si può fare una trasmissione senza Twitter, è più facile farla senza telecamere che senza il contributo da Twitter. E siamo attivissimi su Twitter già da giorni, giorni e giorni, quindi siamo un movimento incredibile online con un hashtag italiano che si aggiunge a quello internazionale che è hashtag Eurovision naturalmente. Noi abbiamo anche il Ask Ita che potete seguire. Ovviamente, cioè, gli aspetti sono molteplici, insomma. A me danno un po' fastidio quelli che guardano i programmi molto popolari e fanno i commenti intelligentini per un gruppo ristretto di persone, per dire quanto siamo intelligenti, quanto ridiamo noi di questi programmi popolari, eccetera, che mi sembra veramente così una forma un po' narcisistica, eccetera, così. Poi certo leggo anche i Twitter che ce l'hanno con le mie critiche, insomma tutto, però insomma voglio dire ormai sono abbastanza corazzato, per cui non mi incuriosiscono, ma non più di tanto. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.